Achimina kutena kutena boli. Wewe wewe kutena boli. Achimina kutena kutena boli. Wewe wewe. Kondwela nitengo sana yoyo. Kondwela nitengo sana dulip. Achimwene sangala sa chitokuli sanzo safuna ndala. Achimwene sangala sa chitokuli sa. Achimina kutena kutena boli. Wewe wewe kutena boli. Achimina kutena kutena.